In questa settima edizione al centro avremo tre temi, alcuni sono più importanti. Partiamo dal PNRR, che sarà un po' il filo conduttore degli incontri di questa edizione, quindi i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'impatto che rischiano di avere anche negativo su un territorio in cui non sempre c'è attenzione al rischio di infiltrazioni mafiose o ai casi che ci sono già stati. Parleremo di mafie invisibili e dei segnali che troppo spesso non sono stati letti, sono rimasti nascosti in una città che ancora si sente lontana dal radicamento e dalle infiltrazioni mafiose. E poi un tema che ci accompagna da sempre in questo festival, passiamo al racconto delle mafie tra podcast, video, inchieste e un lavoro di comunità che viene fatto sul territorio. Secondo te perché Bologna si sente così tanto distante dalle mafie? Perché appunto secondo l'opinione pubblica non è permeata da questo fenomeno? Noi abbiamo diversi livelli di lettura su questo. Il primo è che a Bologna non ci sono stati grandi processi. Sì, la città non è mai stata coinvolta invece nei grandi processi, ad esempio di 'Ndrangheta, che hanno toccato le altre province dell'Emilia-Romagna, a partire da Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Modena, colpite in particolar modo dal maxi processo Emilia e dai suoi filoni. E dall'altra c'è una incapacità anche a leggere determinati segnali. Nelle video inchieste che presenteremo al festival, appunto Ipostia Montana, che racconta l'Appennino bolognese tra spopolamento, infiltrazioni mafiose e i fondi in arrivo dal PNRR su quel territorio, 90 milioni, e dall'altro l'inchiesta sul dopolavoro ferroviario, quindi un luogo centrale per la città dove arriveranno 11 milioni dal PNRR per la riqualificazione del luogo e dove ci sono dei segnali inquietanti sulla presenza di atteggiamenti intimidatori e criminali, quello che vediamo appunto forse più con una disattenzione proprio il non saper leggere determinate dinamiche che avvengono o non farsene carico. Le segnalazioni spesso non vengono fatte, come Libera Bologna ci troviamo ad essere soggetti intermedi tra cittadinanza e forze di polizia, perché non c'è a volte una cultura anche della denuncia e dall'altra non si capisce la gravità probabilmente di determinati fatti che però sul territorio sono avvenuti e che ci raccontano una situazione inquietante. Voi come riuscite quindi ad arrivare a questi, cioè ad avere informazioni su questi casi e quindi ad attuare appunto giornalismo d'inchiesta e iniziare con queste indagini? L'anno scorso come Libera Bologna abbiamo deciso di investire con un piccolo gruppo sul tema del giornalismo d'inchiesta. Lo abbiamo fatto a partire da Via Saffi, dove qualche anno fa c'erano stati degli incendi e ci siamo tornati anni dopo per capire effettivamente quale fosse la situazione. La situazione che abbiamo trovato, anche solo andando a parlare con le persone, cercando di capire cosa fosse successo, era una situazione di paura e anche di omertà. Da quel lavoro che poi ha creato abbastanza, se ne ha parlato abbastanza, siamo partiti con altri tipi di lavori tra Interpol, il pilastro, per raccontare spesso casi che magari sulla stampa locale emergono ma per i quali non c'è spazio di racconto. Il giornalismo d'inchiesta locale purtroppo è sempre meno portato avanti per una questione probabilmente di costi, di lunghezza e di impegno. Come associazione ci sembrava però fondamentale, dopo tanti anni di lavoro, per cercare di capire e di far capire effettivamente quale fosse la situazione sul territorio, di iniziare non solo a raccontare quello che già emerge, quindi provare a creare collegamenti, ma anche andare a fondo nello specifico. Lo facciamo a seconda ovviamente delle inchieste, mettendo insieme quello che emerge dalla stampa e ormai sempre di più ricevendo segnalazioni. Dalle segnalazioni poi cerchiamo di capire effettivamente qual è la situazione e poi tramite gli strumenti che sono quelli di un certo tipo di giornalismo di inchiesta, quindi visure, studio dei bilanci, ovviamente interviste, ricerca di fonti e lettura più profonda di quello che avviene su determinati territori, cerchiamo di far emergere appunto determinate situazioni, come quest'anno saranno quelle sull'Appennino bolognese, quelle invece sul parco del dopolavoro ferroviario. Riuscite ad arrivare insomma a questi fenomeni tramite segnalazioni, ma allo stesso tempo prima parlavi di omertà, di vergogna in qualche modo, quindi questo potrebbe essere interpretato come un segnale positivo di risposta della comunità nei confronti delle mafie? Un segnale per quanto ci riguarda positivo da una parte, ma forse anche che dovrebbe creare discussione. Appunto le segnalazioni ci sono arrivate dopo la prima video inchiesta su Via Saffi, di cui appunto se n'era parlato pochissimo, però vuol dire che fino a quel momento effettivamente non c'erano strumenti, non c'era fiducia nella segnalazione, per cui sì, Sicuramente è un fatto positivo perché in qualche modo poi quei fatti cerchiamo di farli emergere. Anche è vero che noi siamo un'associazione, siamo anche giornalisti sicuramente, però c'è tanto ancora da fare. Se quelle segnalazioni non arrivano alle forze di polizia, se non vengono fatte emergere, se troppo spesso, come si diceva anche prima, c'è chi dice ma è un fatto che vedono tutti, perché dovrei denunciarlo io? Sembra di essere quasi al paradosso della città che viene raccontata spesso come la città attenta, con una cittadinanza attiva, con una determinata cultura, e che però poi in cui si trovano situazioni come queste, in cui invece le denunce non vengono fatte o neanche le segnalazioni, o si ha paura o si teme di parlare.